Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo subito la mail alla quale scrivere: unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Continuiamo a seguire la vicenda del terremoto in Abruzzo con degli approfondimenti che sono propri di questa radio, di questo gruppo editoriale e della mia trasmissione. Ricorderete che alcuni giorni fa abbiamo avuto ospite il magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Olga Capasso, che segue da un paio d'anni le vicende abruzzesi e ci ha spiegato quali possono essere i fronti di attacco attraverso i quali le mafie possono provare ad incunearsi nella ricostruzione post-terremoto in Abruzzo. Abbiamo sentito anche l'allarme del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, che dice: attenzione alle infiltrazioni. Per capirne di più e sondare il terreno delle imprese abruzzesi, io ho il piacere di avere ospite il cavalier Strever, che è presidente di ANCE Abruzzo. Buongiorno cavaliere Strever. Buongiorno. Allora, io direi di partire da una domanda semplice, che è questa: voi temete il rischio di infiltrazioni mafiose? Penso proprio di no. Ecco, questa sua risposta abbastanza secca e convinta, da che cosa è dovuta e alimentata? Da un tessuto sano di imprese, da un tessuto fatto di imprese oneste che si conoscono, da un radicamento sul territorio? Può spiegarci i motivi per i quali lei è così assertivo? Beh, l'Abruzzo storicamente è una regione sana, una regione di gente laboriosa e storicamente risulta nel rispetto delle regole, ed è difficile radicare soggetti mafiosi in un ambiente sano. In un corpo sano è difficile che possa immettersi un germe malato, è così? Direi proprio di sì. Benissimo. Però le chiedo questo. A me piacerebbe che lei commentasse i due punti fermi che ha messo il sostituto procuratore nazionale antimafia Olga Capasso. Ha detto: due possono essere i punti di attacco delle mafie nella ricostruzione. Il primo è il bando di gara. Olga Capasso ci diceva che i bandi di gara in Abruzzo sono solitamente scritti male e potrebbero essere scritti in maniera tale da favorire alcune imprese piuttosto che altre. Ecco, voi temete questo rischio? Io personalmente no, perché conoscendo l'attuale presidente della giunta regionale, che è persona capace, attenta e profondamente corretta, non riesco neanche a immaginare che lasci spazio a queste insinuazioni. Un altro punto che ci metteva in evidenza la Capasso era questo: in poche regioni come nell'Abruzzo spesso le gare sono vinte al massimo ribasso. Il fatto che siano vinte al massimo ribasso vuol dire che le imprese sono costrette spesso ad assumere manodopera in nero e ad usare materiali scadenti. Questo aprirebbe un varco enorme per le imprese mafiose, che in fin dei conti non devono fare affari, o non solo quello, ma devono riciclare denaro. Quindi manodopera in nero e materiali scadenti ne possono trovare quanto vogliono. Ecco, qual è il suo giudizio su questo criterio del massimo ribasso? Il criterio del massimo ribasso, a mio avviso, non è certo la gara migliore. La gara migliore sarebbe quella, l'offerta economicamente più vantaggiosa, che viene valutata da una commissione di esperti nominata dall'ente appaltante, che si fa riferimento a una serie di qualità e di valutazioni che lascia scegliere il committente nella maniera più corretta e giusta. Ecco, quindi massimo ribasso no, offerta economicamente più vantaggiosa sì. Questo scoraggerebbe le imprese vicine alla mafia, secondo lei? Io la risposta non è riferito al problema della mafia, in quanto ignoro il fatto che possono esserci imprese mafiose. Le imprese per me fino a prova contraria sono tutte persone serie. Indubbiamente. Allora, però questa, diciamo, è che l'offerta più giusta per l'ente appaltante per avere il prodotto certo e sicuramente ottimo. Volevo chiederle questo: la procura antimafia ha detto, cari magistrati aquilani, non vi lasceremo da soli, faremo un pool di magistrati, di esperti, in maniera tale che alzeremo una barriera contro il rischio di infiltrazioni mafiose. Lei, che è a capo dei costruttori edili abruzzesi, ha in mente di fare qualcosa di simile, cioè un pool che vigili, una cabina di regia, insomma un momento unificante contro il rischio delle infiltrazioni? Ange non può fare questo, non è in grado di fare questo, però se dovesse servire di metterci a disposizione della magistratura, per quanto possibile, per quanto di nostra conoscenza, sicuramente siamo a disposizione della legge. Benissimo, quindi una cabina di regia no, ma mettersi a disposizione della magistratura ovviamente sì. A proposito di questo, in queste ore sta iniziando, almeno così leggiamo sui giornali, una serie di colloqui che la magistratura aquilana ha chiesto con i costruttori edili. Lei, che è a capo dei costruttori edili, è tranquillo di quello che uscirà da questi colloqui, perché sa che ci sono state molte polemiche su alcune costruzioni che sono venute giù e ora si sta indagando sul motivo per cui sono crollate. Ecco, personalmente conosce alcuni di questi costruttori chiamati in causa dalla procura? Oddio, i costruttori in grande linea, quelli aderenti all'ANCE, li conosco tutti. Certo. Però fino a prova contraria io sono convinto che i colleghi hanno lavorato bene e nel rispetto delle regole vigenti. Se così non fosse, la magistratura facesse il suo dovere, perché è il suo dovere farlo. Vorrei chiederle un'altra cosa, intanto dico ai nostri radioascoltatori che domani continueremo a essere su questo tema ospitando il presidente dell'ANCE proprio all'Aquila, Filiberto Cicchetti, ma andiamo avanti invece con il presidente dell'ANCE Abruzzo. Ho letto alcuni documenti che voi avete prodotto alcuni anni fa, alcuni mesi fa, in cui segnalavate il fatto che la maggior parte delle imprese edili abruzzesi, e lo vedevo anche in un reportage di Repubblica di alcuni giorni fa, è di imprese piccole. Le imprese grandi alla fine sono poche. Ecco, le chiedo, questo nanismo imprenditoriale, secondo lei, in questo momento è un bene o un male? Alla luce delle gare che verranno espletate, intendo dire, che potrebbero invece essere vinte forse dalle grandi imprese che magari vengono anche da fuori regione. Questa è una domanda difficile, ogni medaglia ha il suo rovescio. Di conseguenza, premesso che in Abruzzo ci sono tante imprese organizzate, strutturate, capitalizzate, che possono tranquillamente, hanno i requisiti per partecipare. Io ai miei associati ho detto a tutti: organizzatevi, consorziatevi, fate dei raggruppamenti tali da avere i requisiti per partecipare. Purtroppo il tessuto imprenditoriale italiano, non solo quello abruzzese, è fatto effettivamente di microaziende, però questo, come dicevo un attimo fa, è un bene o un male, ogni medaglia al suo rovescio. Ecco, ovviamente noi siamo qui per contribuire con il, come dire, giornalismo d'inchiesta e giornalismo, come dire, che possa anche essere di aiuto per capire i problemi. Siamo qui per mettere in evidenza quelli che sono i pericoli. Ciascuno di noi in questo momento deve dare, secondo me, una mano alla ricostruzione post terremoto in Abruzzo utilizzando tutti gli strumenti a disposizione. E allora le faccio questa domanda proprio sulla scia di questo nanismo imprenditoriale che è tipico dell'Italia, come lei ricordava. Non temete che imprese magari che hanno operato nella vicina Umbria, nella vicina Marche, dopo il terremoto che ha colpito 11 anni fa quelle regioni, purtroppo con capitali spesso sporchi, perché lì ci sono state delle inchieste e la magistratura l'ha messa anche in evidenza, possono arrivare nella vostra regione e proprio perché già strutturate possano prendere lavori? Tutto è possibile, però ripeto, in Abruzzo hanno sede società di costruzione, imprese edili di grande pregio e di capacità. Benissimo. Cui sarà comunque uno sviluppo nei prossimi mesi alla pari, e come dicevo prima, che venga il migliore. Giustamente, se ci saranno delle aggiudicazioni fatte alle offerte economicamente più vantaggiose e, ripeto, avendo totale fiducia nell'amministratore regionale, che vinga il migliore. Certo. Benissimo, io ringrazio il cavaliere Gennaro Strever, presidente dell'ANCE Abruzzo, per il suo intervento. Gli auguro buon lavoro. Ovviamente tutto il popolo italiano tifa in questo momento per l'Abruzzo. Noi ci accodiamo ovviamente a questo tipo di tifo che è sano. Ringrazio in regia Fabio Cantadori, in studio Laura Faggin. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani. Parleremo con Filiberto Cecchetti, presidente dell'ANCE L'Aquila.